Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Tu sei dentro di me, come l'alta marea che scompare e riappare portandoti via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mio. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio, quanto ti voglio. Per dirti quanto ti voglio, per dirti quanto ti voglio, per dirti quanto ti voglio.